te cuprene na casina, cu na vaca na zo en crin. Facini e na galina, e na crota piena di. E la sera tra le spala, cu na mezza stupta di. Pe perfume la cicala, e calte sera e matin. Se la vaca o la galina, an dirà, ma come mai? Altri diventi una stara, con le bestie come noi. E mi risponderai le vera, se le bestie mai venì. Perché se le bestie vere, dalla testa, ya ya ya sì. Mentre di tanque e tancutre, strappa la seta di mai. Teste naso, grillo vacche, mentre su da sono mai. E ti zoten, come ciameie, sei galina, o madre mia. Sei musui, o testa naso, reverendo, o faccia crin. E per lo meno si trastala, in elementi stessa crin. Testa come la cicala, e cante, sera e mattina. Oh, minore. A questo punto potremmo fare anche Zuma, sì. Io penso che nessuno ci creda. No, ma davvero.